Un saluto a tutti e tutti, nuova puntata di Passaggi a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat che tratta di quello che accade nel quadrante nord-ovest di Firenze e lo tratta ascoltando direttamente le voci dei protagonisti, di chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Ricordiamo Passaggio a Nord-Ovest in onda in diretta tutti i lunedì alle 14 su Radio Wombat e in replica ai giorni successivi fino al venerdì alternati alle 13 o alle 14. In questa 18ª puntata mandiamo in onda la seconda parte dell'intervista a un rappresentante contro il sottoversamento del tunnel TAV di Firenze, intervista realizzata durante la terza festa di Rifredi ai giardini di Viale Corsia. Ricordiamo anche i passaggi a Nord-Ovest, lo potete riascoltare in podcast, così come tutte le trasmissioni di Radio Wombat, lo potete appunto riascoltare in podcast andando alla sezione podcast sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org. Ecco la seconda parte dell'intervista. Ora, con dinamiche diverse, però problemoni di falda, di mancanza di acqua, il Mugello sono mai assodati, torrenti che sono scomparsi e che non ricompariranno più. Sì, esatto. Sì, la situazione fiorentina è diversa. Sono pericoli, rischi diversi, ma in effetti è così. Tutte e due le cose, cioè sia l'essiccamento delle falde, in Mugello, che questi rischi di impattare la falda, sono figli di un progetto fatto male, sono figli di progetti fatti male, sono progetti sbagliati sostanzialmente e che ignorano questi temi. Dichiarano di risolvere questi problemi, ma non è assolutamente vero. E le iniziative? Cosa, contrapposizione, una crona diciamo delle ultime iniziative, delle ultime partecipazioni da parte del comitato anche a convegni che si sono svolti anche fuori, insomma, sì. Contro le grandi opere inutili e dannose. Allora, ne abbiamo fatti tanti che ora non me li ricordo nemmeno tutti, però comunque per esempio ultimamente in città abbiamo continuato a fare dei presidi, volantinaggi informativi, perché vogliamo che questo tema sia ben presente nei cittadini. In realtà tutti questi rallentamenti nei lavori fanno percepire alle persone che questo è sostanzialmente un cantiere fermo e che questa TAV non si farà mai. In realtà il cantiere è rallentato, ma non è fermo, il progetto non è chiuso. Quindi c'è la possibilità che i lavori inizino anche in tempi relativamente brevi. Adesso ci stanno dicendo che hanno avuto altri intoppi, e se vuoi ti dico anche i motivi, e che potrebbero ripartire a primavera. Ma appunto primavera non è che sia lontana, se ce l'hanno 4-5 mesi, se cominciano a scavare le gallerie è veramente un rischio grosso per la città. Quindi facciamo questo lavoro, diciamo, di informazione. Poi ci siamo accorti che il problema delle grandi opere non è soltanto il tunnel TAV, cioè ormai le grandi opere sono una miriade, cioè se si pensa che soltanto nella Fiana l'aeroporto, l'inceneritore, ma guardate anche la realizzazione delle tranvie c'ha delle caratteristiche particolari che sono veramente quelle tipiche di quelle delle grandi opere. Allora, la tranvia in sé sarebbe anche una cosa buona, come la ferrovia in sé potrebbe essere una cosa buona, cioè il trasporto pubblico. Il problema è come vengono progettate e come vengono fatte. Cioè, se si tiene conto, per esempio, soltanto dei costi delle tranvie fiorentine sono allucinanti, io non so se lo sapete, ma noi siamo in contatto con la facoltà di architettura e c'è uno studente di un nostro collaboratore che ha fatto una tesi sulle tranvie di Firenze. Ha visto che mediamente in Europa le tranvie hanno un costo di 8 milioni al chilometro, 7 milioni e mezzo, 8 milioni al chilometro, un costo medio di questa cosa. Le tranvie fiorentine in realizzazione, la numero 2 e la numero 3, hanno una previsione di spesa di 37 milioni a chilometro. Allora, io credo che una cosa del genere, cioè qui, no, qui il dibattito sulle tranvie è stato, è bella la tranvia, è bella la filovia, cioè il problema è come vengono fatte le cose. Qualunque cosa si metta in mano a questa cricca di costruttori e politici diventa uno sperpero e un furto di risorse pubbliche e fonte di arricchimento per le persone. E poi sono tutte infrastrutture che io dubito molto daranno risposte concrete al bisogno di trasporto in città. Ecco, a proposito di costi per la comunità e di guadagni per chi le costruisce o comunque per chi fa finta, insomma, non importa, sotto certi aspetti non importa nemmeno più di tanto in certi momenti di finirle, perché tanto sono soldi che comunque dal loro punto di vista incassano. Ecco, ci puoi rifare un quadro diciamo un po' semplice e preciso nello stesso momento di chi sta costruendo, quali sono le ditte che operano a Firenze? Allora, brevissima storia, la gara d'appalto la vinse una cooperativa emiliana che si chiamava COP7 di Reggio Emilia, una cooperativa di Reggio Emilia, da dove viene Del Rio, tra l'altro l'attuale ministro delle infrastrutture. Poi questa ditta ha avuto diverse traversie economiche, e quello sarebbe un interessantissimo capitolo, vedere la storia, diciamo, di fallimento di questa cooperativa. Ma è proprio oggi è venuta fuori la notizia, la voglio dire perché è grave, cioè, hanno fatto dei lavori veramente in maniera vergognosa. Sul lago di Garda hanno costruito un intero villaggio turistico sotto una montagna a rischio frana. La COP7, tanto per dire, e quello è stato un naturalmente qualcuno ci ha mangiato di sopra, ma è stato un disastro per la cosa. È venuto fuori oggi dalle inchieste in Liguria che la COP7 ha costruito grossi insediamenti urbani, in particolare caserme per la polizia, con l'intervento diretto e conosciutissimo dell''Ndrangheta. Cioè la COP7 ha vinto l'appalto per costruire queste residenze per la polizia di Genova e ha appaltato tutto a società controllate dall''Ndrangheta. Questo ha portato naturalmente al fallimento della COP7. La COP7, fallendo, non ha reso tutti i soldi dei soci e ha lasciato 450 lavoratori senza lavoro. Allora, quindi COP7 si aggiudica l'appalto per i lavori, per i grossi lavori a Firenze, fallisce e i lavori vengono presi da Condotte SPA, cioè da Caltagirone. Anche questa è una cosa che noi ci domandiamo un pochino se è una cosa corretta, perché di solito quando fallisce il vincitore di una gara dovrebbe subentrare il secondo in classifica. In realtà non hanno fatto così. Primo perché uno è già fallito, era la ditta di Fusi, Baldassini Tognozzi Pontello, il secondo aggiudicato, è fallita, quindi non l'hanno fatto. C'era un terzo che aveva partecipato, di cui non mi ricordo il nome, so che ha fatto un ricorso al TAR, ma questo ricorso al TAR è lì bloccato. Nel frattempo i lavori sono, non è che i lavori, per la precisione, per realizzare quest'opera COP7 aveva creato una società ad hoc che si chiama Nodavia. Sì. Allora, dicevo, Condotte è subentrata a Nodavia, non tanto prendendo quei lavori pari pari, ma subentrando nel controllo della società che era stata creata per realizzarla. Cioè COP7 aveva creato una società esterna controllata da loro, con la maggioranza delle azioni in sua proprietà, le ha vendute tutte praticamente a Condotte S.p.A. Quindi Condotte S.p.A. ha il 99,9% delle azioni e Nodavia, che non si sa bene che ectoplasma sia oggi, ha lo 0,1% delle azioni. Quindi è un'operazione anche questa un po' strana. Come andranno avanti i lavori non lo so. Certamente noi crediamo che Condotte sia subentrata volentieri in questo lavoro, perché ce ne accorgemmo nel 2013-2014. Vedemmo che allora che a fronte di lavori, diciamo, del valore allora erano di 200 milioni circa, c'erano richieste di spese superiori per 528 milioni, cioè quello che doveva costare 200 milioni alla fine secondo loro costava 750 milioni. Quindi neppure raddoppiato, no. Cioè 500 milioni rispetto a 200, sì. Quindi triplicato. Sì, quadruplicato, non so. Sì, queste sono le dimensioni. Naturalmente, perché Condotte subentrò? Cioè, questi sono soldi, anche se non me li danno tutti questi 500 milioni, sono sicuramente soldi che mi becco senza nemmeno muovere una cazzola di cemento. Nella fase successiva questi 528 milioni sono diventati 350, comunque è pur sempre un bel tesoretto che Caltagirone si è incassato senza muovere un dito. Poi vi ripeto, i lavori sono andati avanti in maniera furibonda durante l'ultima estate, proprio perché si temeva la chiusura di questo progetto. Ci sentiamo ora un altro brano musicale, sempre suggerito da Tiziano, Street Fighting Man, sono i Rolling Stones. We'll be right back. Ecco, il tratto fiorentino è un tratto dell'alta velocità, ecco, diciamo, un'idea, neppure una panoramica. Com'è la situazione? Ecco, sulla rete, sulla futura rete, rispetto ai lavori, sulla futura rete dell'alta velocità in Italia. Allora, la linea Torino-Napoli, a parte il nodo di Firenze, altri nodi, insomma altre cose secondarie, è sostanzialmente ultimata. E ci sono altri progetti di alta velocità in Italia molto discussi, discutibili e secondo noi sbagliati assolutamente. Uno è quello del Terzo Valico, una linea ferroviaria che dovrebbe collegare la pianura padana con Genova, ma senza arrivare nemmeno a Milano, perché non si capisce bene che cosa sia, anzi si capisce bene, cioè quando fanno questi grandi lavori i guadagni maggiori vengono quando si scavano gallerie, quindi tutte queste grandi opere prevedono gallerie, ovunque tu vada, che siano autostrade, strade o ferrovie, gallerie, ci sono le gallerie, perché nello scavare c'è poco costo di manodopera, c'è tantissimo investimento di capitale e c'è un ritorno economico altissimo, per questo gli piacciono fare queste cose. C'è un progetto in parte già avviato in fase di realizzazione da Milano a Padova, che poi sarebbe a Venezia. È un progetto molto contestato. In questi giorni è uscito uno studio indipendente di un gruppo di ricercatori dell'Università del Politecnico di Milano che ha dimostrato come i calcoli costi-benefici per questa tratta Milano-Padova siano assolutamente perdenti e che se si va a realizzare quest'opera ci sarà una perdita secca di 4 miliardi. Poi c'è il progetto di costruire un'altra linea da Napoli a Bari, anche lì non c'è una domanda che giustifichi la realizzazione di un'opera di queste dimensioni. C'è un progetto di alta velocità che forse è il più folle di tutti, da Verona al Brennero, 200, e poi in Austria, 240 km di gallerie. Esistono già in queste zone delle ferrovie che potrebbero essere certamente velocizzate, ma sono assolutamente sottoutilizzate, cioè anche la linea per il Brennero, un 30-40% dell'utilizzo, cioè i treni potrebbero più che raddoppiare su queste linee e quindi non ha senso andare a costruire cose di questo genere. Ma poi la TAV c'ha... La TAV, come si è scelto di fare in Italia, cioè il modello francese, è quanto di più sbagliato. Già anche in Francia stanno tornando indietro, cioè stanno smettendo di fare le linee. Infatti a Torino, la famosa Torino-Lione, nonostante le dichiarazioni che fanno anche i ministri ultimamente fatti una decina di giorni fa, la Francia ha detto chiaramente: noi vogliamo una pausa di riflessione, quella linea per ora non la facciamo. E anche lì sarebbe interessante una riflessione su come i media dicono esattamente il contrario. Ma ripeto, l'errore grosso della TAV italiana è aver preso il modello francese, dove in Francia ci sono poche grandi città e diciamo c'è un territorio poco antropizzato. L'Italia la chiamano il paese dalle 100 città. Cioè, io quando penso fra Milano e Bologna hanno costruito una linea alta velocità che ignora praticamente, non dico la metà, ma quasi del cuore economico d'Italia. Città come Parma, Piacenza, Fidenza, Reggio Emilia, Modena, Lodi, Cremona sono completamente tagliate fuori dall'alta velocità. Cioè, si è creata una sostanzialmente una metropolitana per i manager che vivono a Torino, a Milano, a Bologna e a Roma. E ritornando a Firenze, ritornando al comitato, le prossime iniziative, quando vi vedete, insomma, e le prospettive, l'idea per il futuro. Allora, noi ci vediamo ogni tanto, ogni settimana, ogni 15 giorni, a seconda un po' delle necessità, diciamo, di impostare il lavoro. Adesso abbiamo anche delle iniziative molto, diciamo così, posso dire, molto non pratiche, non di movimento. Vogliamo partecipare a un esposto che faremo alla Corte Europea per questo decreto sulla VIA, che praticamente annulla tutti i controlli che si possono fare quando ci sono la realizzazione di nuove opere. Stiamo studiando ancora diciamo così, le ultime norme sulla realizzazione delle terre di scavo, e stiamo preparando un esposto per la magistratura, perché secondo noi stanno violando le stesse norme che si sono dati loro. Poi cerchiamo di fare rete con altri comitati, perché ci rendiamo conto, diciamo, che il nostro problema è un problema legato, è politicamente legato a quello di tutti gli altri, cioè è una politica che non si interessa del territorio né degli abitanti, ma si interessa semplicemente di garantire profitti alle grosse imprese, ai grossi gruppi finanziari. Quindi ecco, ci rendiamo conto di questa necessità di fare rete. Stiamo valutando insieme ad altri, in particolare con i comitati della Piana, la possibilità di fare delle manifestazioni, delle iniziative pubbliche di protesta prima di Natale, nel mese di dicembre. Io spero che questa cosa vada avanti e poi vediamo. Cerchiamo ancora, e questo lo facciamo però da anni, cerchiamo di partecipare a reti nazionali e anche internazionali sul discorso delle grandi opere, dei trasporti e delle grosse infrastrutture. Facciamo parte di diverse reti, in particolare di una rete che si chiama Forum contro le grandi opere inutili e imposte. È una rete che raggruppa comitati di tutta Europa e del Nord Africa, e ci stiamo rendendo conto di come i problemi sono simili. E se mi permette una parentesi, ci stiamo rendendo conto, soprattutto incontrando questi gruppi del Nord Africa, in particolare stanno realizzando un'alta velocità in Marocco, cioè in Marocco un'alta velocità è allucinante, ci stiamo rendendo conto di come le logiche non soltanto economiche ma anche politiche che ci sono dietro le grandi opere sono quelle che hanno creato il debito che sta strangolando il terzo mondo. Cioè le grandi opere inutili sono state utilizzate e realizzate dai paesi colonizzatori nei confronti dei paesi colonizzati per indurli ad avere un debito talmente alto che non possono ripagare, e costringendoli in sostanza a una condizione di semiservitù, con un debito in cui per pagare soltanto gli interessi si devono dissanguare. Ecco, noi ci siamo accorti che queste logiche, che prima riguardavano appunto paesi come il Messico, la Tunisia, l'Egitto, stanno arrivando in Italia, in Spagna, in Francia, anche in Gran Bretagna, in Portogallo. Cioè qui veramente c'è un monopolio, un oligopolio della finanza internazionale che sta colonizzando il mondo. E niente, l'intervista finisce qui, ringraziamo Tiziano. Ci puoi dire dove possiamo trovare tutte queste notizie che ci stai dicendo? Il sito web? Allora, abbiamo una pagina Facebook, se cercate Notav Firenze la trovate, e c'è un sito con molto materiale, con tutti i nostri comunicati e con materiale anche delle nostre proposte, notavfirenzeblogspot.com. Ringraziamo un'altra volta Tiziano, salutiamo gli ascoltatori, alla prossima!